Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 22 aprile, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Siete su Liberi Dentro Eduradio e do il benvenuto e il buongiorno anche ad Antonella Cortese, collega di redazione. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E a Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, con le notizie partiamo oggi da Torino. Leggo una notizia di Roberta Paoletti sulla Repubblica. Riportare i detenuti nelle città, così il carcere mantiene un contatto con l'esterno. Perché lo sappiamo, no? Ormai le carceri sono sempre più fuori dalle città, non sono più, una volta nascevano dentro le mura cittadine, adesso sono sempre più alla lontana dalla nostra portata visiva e dalla nostra portata anche sociale. Ma non vuole essere così a Torino, dove questa cooperativa Eta Beta, attiva sul territorio torinese dal 1987, dal 2001 ha avviato un laboratorio informatico all'interno del carcere Lo Russo Cotugno di Torino, e da questa esperienza nasce Vallette al Centro, progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana col Fondo Sociale Europeo. E perché, come sapete, anche come riporta il 17° rapporto di Antigone sulle carceri italiane, il tasso di affollamento è altissimo. E pensate, il 106,2% sull'effettiva capacità delle strutture e il 115% se si considerano le strutture non idonee. E quindi con questo progetto si vuole in qualche modo fare una reversibilità della storia nelle carceri carceri che siano sempre più vicine alla gente, vicino alla città. Come? Producendo prodotti, attività di sensibilizzazione che partono dal carcere, si espandono poi al quartiere e poi alla città tutta, per coinvolgere biblioteche, scuole, servizi. E così ce lo racconta anche Rosetta D'Ursi, sempre della cooperativa Eta Beta, che dice: a fronte delle poche alternative che hanno i detenuti, col progetto Vallette costruiamo percorsi di inclusione sociale per le persone detenute, creiamo i presupposti perché le persone possano mantenere un contatto con l'esterno. E quindi corsi di formazione informatica, scrittura giornalistica e molto altro sono realizzati all'interno. Pensate che si pensa anche all'assunzione delle persone più portate, che possono magari avere qualità di scrittura creativa, all'interno del progetto editoriale Lettera 21, che è una rivista online di voci dal carcere, sempre gestita dalla cooperativa Eta Beta. Quindi se si aumenta la consapevolezza di queste opportunità, condividendo gli strumenti per la vita quotidiana e dando alle persone detenute un'alternativa alla pena, è possibile ridurre anche lo stigma e la marginalizzazione per i reati reiterati. Ma ora do la parola a te, perché Antonella, tu ci parli di poesia. Sì, grazie Caterina e grazie per gli interessantissimi argomenti che lanci ogni volta. Io parlo di poesia oggi, parlo di un poeta che si chiama Rumi. E poco più di 800 anni fa, e precisamente nel 1207, in una città del nord-est del regno di Persia, e nella città di Balkh, oggi nell'attuale Afghanistan, nasceva un bambino molto speciale. Jalaluddin, scusate la mia pronuncia pessima, ma insomma faccio del mio meglio, che significa gloria della religione, Muhammad, destinato poi a diventare il famoso Rumi. Suo padre era un rinomato studioso, un mistico sufi, e il sufismo è il ramo più mistico dell'Islam, a cui i sermoni partecipava addirittura il re di Persia, quindi era molto famoso, molto bravo, molto quotato, si dice oggi. E con la sua famiglia si trasferì in Turchia, dove suo padre insegnò fino alla morte, e l'allora 24enne Rumi decise di proseguire sulle orme del papà, studiando filosofia, letteratura, storia, legge islamica e altre materie, e si affermò come uno stimato insegnante di religione. E fin qui tutto normale. Poi ci fu l'incontro della vita, che lo trasformò completamente, e l'incontro fu con un derviscio errante, Shams Tabrizi, letteralmente il sole di Tabriz, città del nord-est della Persia, che ormai sessantenne aveva dedicato tutta la sua vita alla pratica degli insegnamenti sufi. Galeotto fu questo incontro perché Rumi decise di diventare un mistico e un poeta dell'amore. Accantonò per un certo periodo gli studi e negli anni seguenti cominciò a dedicare gran parte del suo tempo alla poesia, sviluppando la pratica del Sama, dove meditazione, musica, canto e danza sufi si fondono insieme, costituendo una tradizione che ancora oggi conta migliaia di discepoli in tutto il mondo. In buona sostanza, l'amore è l'alchimia della pace. Poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci fu un altro famoso personaggio che nel 1945, Albert Einstein, osservò che la guerra è vinta, ma la pace no. Rumi ha un po' la stessa visione. La violenza non genera una pace duratura. Solo la comprensione, la compassione, la gentilezza e la condivisione possono farlo. E queste sono le qualità dell'amore. Vi leggo una poesia. Là fuori, al di là delle idee di falso e giusto, c'è un vasto campo. Come vorrei incontrarvi là, quando colui che cerca raggiunge quel campo, si stende e si rilassa. Là non esiste credere o non credere. E qui è proprio Rumi che parla e che esprime il suo pensiero più profondo. E vorrei lanciare anche oggi un brano della bravissima Feyruz, che abbiamo detto è la nostra ambasciatrice delle stelle. E tra i testi delle canzoni di Feyruz vi sono romantiche storie d'amore, e quindi Rumi in tutta la sua bellezza, e argomenti di carattere patriottico nei quali si esprime la nostalgia per la vita rurale e l'amore del proprio paese. A voi l'ascolto. Eccovi, bentornati su Liberi Dentro Eduradio. Ci siamo lasciati con il Libano, con la nostra cantante Feyruz. E allora, Ignazio De Francesco, rimaniamo in Libano. Ce lo racconti tu oggi? Sì, il Libano, io ci passavo l'estate negli anni di Damasco, l'anno scolastico era a Damasco e l'estate era a Beirut. Non è una gran scelta perché c'è un tasso di umidità pazzesco, non si vede il mare certi giorni da 300 metri di distanza. Il Libano è per me il paese delle contraddizioni anche nella bellezza, perché il Libano sono i monti e il mare. Il Libano è Svizzera, i monti del Libano sono la Svizzera, e poi c'è il mare stupendo, e le spiagge. C'è una tradizione antica rabbinica in cui si dice che a Mosè viene impedito, lui sarebbe voluto entrare in Libano prima della terra promessa, ma Dio gli dice no, perché se vai lì poi non vai in Palestina, che è un po' più bruttarella, diciamo, cioè il Libano c'ha proprio tutto. Quindi è un posto dal punto di vista del paesaggio stupendo, molto, molto contrastato, anche cose molto diverse, e questo contrasto rimane anche nella vita dei popoli, dei cittadini del Libano. C'è questa identità che ha ricordato Antonella, identità nazionale molto forte, patriottismo, i cristiani, soprattutto i cristiani maroniti, ma anche i musulmani. Però anche per un prodotto un po' della guerra civile, non dimentichiamo, sono stati 15 anni che hanno spaccato il Libano e ancora ci sono le ferite, ancora oggi. Ha prodotto anche, secondo me, da osservatore, una lacerazione di civiltà, nel senso che nella parte cristiana trovi l'iperoccidente, la ragazza con la minigonna, non c'è niente contro le minigonne, comunque in qualche modo c'è un'accentuazione del dato che siamo diversi di quelli che stanno dall'altra parte. Dall'altra parte trovi magari a distanza di 100 metri delle ragazze che passano velatissime col burqa, cioè trovi questi mondi che io per esempio non avevo questa separazione, non l'avevo conosciuta così, né a Gerusalemme né a Inarik, che è un posto molto rurale, così molto simile, la gente, cristiani e musulmani vivono la stessa vita, e neanche a Damasco. Invece a Beirut è molto forte. Questo contrasto mi ha sempre creato un forte disagio, anche interiore, una incapacità di mettere insieme le cose. Ignazio, in questa società piena di forti contrasti, hai qualche ricordo legato all'ospitalità libanese? Beh sì, questo è il punto che fa ponte, la cosa che fa ponte, malgrado tutti i contrasti, ecco, quello che vive all'iperparigina e quello che sembra, ecco, essere tornato alla Mecca, ecco, del tempo del profeta, c'è questo ponte che è il senso di ospitalità e di amicizia, e quindi questo veramente che è un tratto proprio arabo e fenicio, no? Perché i libanesi, diciamo, noi siamo fenici, tante volte me l'hanno detto. Tra tanti episodi ricordo questo. Dunque, una volta avevamo appuntamento con il papà di un imam italiano, lo posso anche citare, non per nome, Bara El Obeidi, che adesso sta a Milano, era l'imam della sala di preghiera di Reggio Emilia. Il papà è un grande economista, professore di università, ed è stato anche deputato del Parlamento libanese, quindi cioè, non uno qualunque. Sapendo che venivo, che era il suo amico, no? L'amico di suo figlio veniva, ha detto: vengo davanti al museo e andiamo a prendere un caffè insieme. Lui ha tardato un po', io non lo aspettavo da un'altra parte, e quindi non ci siamo visti. E io me ne sono andato, dopo un po' l'ho richiamato, lui era tornato a casa. Allora ho detto: ma guarda che ero lì, così riparto. È venuto, cioè dopo 40 minuti ho scoperto che lui aveva attraversato la città due volte in quel caos del traffico di Beirut per venirci a prendere e portare a casa. Quando sono arrivato a casa sua, vedendo quanta strada aveva fatto per due volte, ho detto: questa è l'ospitalità araba libanese. Grazie Ignazio, e ora lancio io un brano di Metamattina, sempre del nostro Frank Sinatra, sempre rimanendo nel tema viaggi. Come Fly With Me, vieni a volare con me, un brano che descrive le esotiche avventure in luoghi quali Bombay, Perù, Acapulco, un brano famosissimo, ascoltiamolo, del 1957. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you... Bentornati su Liberi Dentro Eduradio. Come ogni giovedì siamo in compagnia del nostro Marcello Mattel, cappellano del carcere della Dozza. Buongiorno, bentornato. Buongiorno e bentrovati a tutti. E siamo a commento della domenica 25 aprile, quindi ne approfittiamo anche per fare gli auguri prossimamente a tutti coloro che si chiamano Marco per il giorno di San Marco. Auguri. E commentiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 11-18, un Vangelo tra i più forse emblematici, no? del Vangelo stesso di Giovanni, perché è quello del buon pastore. Allora io chiedo a te, Marcello, come si svolgeva il lavoro, il mestiere del pastore ai tempi di Gesù? Ai tempi di Gesù non c'erano i grandi allevamenti, e i pastori erano una figura professionale domestica. Ciascun pastore aveva un suo piccolo gregge e quando doveva portarlo al pascolo lontano da casa si poneva il problema di vegliare su questo gregge durante le notti, sia per gli attacchi degli animali sia anche per possibili attacchi di briganti. E allora questi pastori si organizzavano in piccoli consorzi e costruivano un piccolo recinto dentro il quale ciascuno portava le proprie pecore e a turno vegliavano sul gregge durante la notte, oppure assoldavano un mercenario perché vegliasse sul gregge durante la notte. Al mattino poi il pastore apriva il steccato del recinto, dell'ovile, e entrava e col suono della sua parola solo le sue pecore lo seguivano, perché le pecore sue riconoscevano la sua voce, perché il pastore viveva una sorta di comunione di vita con queste pecore, aveva molta familiarità con queste pecore. E quindi Gesù usa questa immagine per ricordare, per richiamare questo fatto che tra lui e le sue pecore c'è un rapporto vitale e le pecore sue riconoscono la sua voce quando si presenta al mattino per chiamarle fuori e portarle al pascolo. Ma io ti chiedo, non è un po' un azzardo quello di Gesù di paragonarsi proprio a un pastore? Perché proprio paragonarsi nel ruolo di questo mestiere anche un po' così umile? Non solo umile, era davvero un azzardo ai tempi di Gesù, perché il mestiere del pastore non aveva un'alta considerazione sociale, in quanto era considerato addirittura un impuro il pastore. Noi l'abbiamo bonificata questa figura dopo, grazie proprio all'utilizzo che ne fa Gesù, al riscatto che ne fa Gesù e anche dopo secoli di arte bucolica che ci ha ingraziosito questa immagine. Ma in realtà ai tempi di Gesù il pastore non era ben visto, era un uomo duro, faceva un mestiere rude nel quale ogni tanto bisognava venire alle mani, bisognava usare la forza per difendere il proprio gregge e quindi non era ben considerato nella scala sociale, nella graduatoria sociale, occupava tra gli ultimi posti ed è significativo che Gesù alla sua nascita abbia mandato gli angeli ad annunciare la nascita di Gesù proprio a dei pastori, perché nella scala sociale erano appunto gli ultimi. Qui Gesù si identifica con questi ultimi e però fa vedere che la sua missione è quella di esercitare questa professione non considerata, ma però che comportava il dono della vita, il custodire, la premura per il suo gregge. E allora che brano potremmo lanciare? Guarda, avevo in mente proprio immediatamente Bruce Springsteen con Rocky Ground, perché all'inizio di questa canzone c'è proprio l'invito ai pastori: svegliatevi pastori, perché il gregge sta per disperdersi lontano dalle colline. Rise up, shepherd, rise up. Your flock is roaming far from the hill. Stars have faded, the sky is still. The angels are shouting, glory and hallelujah. We've been traveling. Forty days and nights of rain washed this land. Jesus said the money changers in this temple will not stand. Find your flock at them the higher ground. Flood waters rising in Canaan bound. We've been traveling. They will stray, will be called for our service come judgment day. For we cross that river wide, blood on our hands will come back on us twice. Eccoci sulle note di Bruce Springsteen, Rocky Ground, che hai appena lanciato, Marcello. Siamo sempre su Liberi Dentro Eduradio e stiamo parlando dell'Evangelo di domenica 25 aprile. E allora io ti chiedo perché Gesù dice di essere il buon pastore, anche anteponendo questo aggettivo di qualificazione, il buon pastore. Perché il pastore, per mestiere, porta al pascolo delle pecore, ma poi alla fine prende la vita di queste pecore. Queste pecore gli danno la vita, gli danno non solo il latte, gli danno non solo la lana, ma gli danno anche la carne quando vengono alla fine uccise. Invece Gesù si chiama il buon pastore perché lui dà lui la sua vita per le pecore. Non chiede che siano le pecore a dare la loro vita per lui, ma si promette e si propone per essere lui, colui che custodisce queste pecore, dà addirittura la sua vita per queste pecore, perché queste pecore abbiano la vita. Non è venuto per prendere la nostra vita, ma è venuto per donare la sua. Questo credo che sia un'immagine davvero significativa e davvero anche non solo commovente, ma convincente, perché ci invita a seguire Gesù, perché non ha interesse a fare il nostro pastore, non lo fa per interesse, non lo fa per ricavare uno stipendio né per ricavare la sua vita da noi, ma per dare la sua vita per noi. E infatti ci riporta proprio nel periodo poi della Pasqua, di questa vita che viene donata per gli altri. Grazie Marcello, ci rivediamo giovedì prossimo e allora un brano lo lancio io, anche per questo sguardo che ci segue sempre, Occhi di Zucchero. Buona mattinata a tutti. Buona mattinata e tanti auguri ai Marco e buona domenica. Poi ho visto gli occhi tuoi, rotti. sei, che belle fai, le belle sere, sai, ho visto gli occhi tuoi, quando scende la bellezza in fondo al cuore, come vorrei. Come ogni giovedì ci lasciamo con le parole del cappellano del carcere d'Ozza di Bologna, Marcello Mattè, e ci ridiamo appuntamento fra poco, sempre su Lepida, con il laboratorio a cura dei Cantieri Meticci, la compagnia teatrale, in replica alle ore 17 su Teletricolore. Per scriverci sempre liberidentro.eduradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna. Aspettiamo i vostri commenti, le vostre critiche, le vostre lettere, i vostri suggerimenti musicali, qualunque cosa vogliate suggerirci a cuore aperto, e ringrazio tutti quanti per l'ascolto e ci rivediamo domani sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.